Allora, siamo in collegamento con la manifestazione di Capizzo del Prete, che dovrebbe partire, è già partita? No, stiamo per partire. Ci avevano assicurato la presenza alcuni sindaci dei comuni limitrofi. Stiamo aspettando che arrivino gli ultimi e partiamo, questione di qualche minuto. Ecco, ci puoi descrivere intanto la composizione, le parole d'ordine e tutto il resto. Allora, guarda, al momento in piazza ci siamo noi del Comitato Rifiuti Zero di Fiumicino, sono già arrivati gli amici di Albano, ci sono delle associazioni di categoria, questo è un territorio ad alta vocazione agricola, quindi abbiamo rappresentanti della Coldiretti che staranno sfilando con noi. Ci sono anche rappresentanti delle istituzioni, quindi è venuto il sindaco, la giunta e parte del Consiglio Comunale di Fiumicino, il Consiglio Comunale che dopo un anno di lotte si è dovuto rimangiare la delibera con cui nel 2008 apriva le porte alla realizzazione di un inceneritore qui a Fiumicino. Ci sono chiaramente i rappresentanti e il proprietario del sito dove vorrebbero realizzare questa discarica definitiva, che è un agriturismo biologico. Tra l'altro finanziato con fondi dell'Unione Europea tramite la Regione Lazio. L'assurdo è che un anno fa, proprio un anno fa, il giorno stesso in cui l'agriturismo ricevette l'autorizzazione da parte della Regione per l'avvio, il potenziamento di questo allevamento biologico, nello stesso giorno gli arrivò la notizia che la sua azienda sarebbe stata trasformata in discarica definitiva con impianto di incenerimento ultramoderno, così lo definivano, doveva essere simile al dissociatore molecolare di Peccioli. Noi andammo all'epoca a Peccioli a vedere che tipo di impianto ci fosse, una discarica di tal quale come quella di Malagrotta, con gli stessi identici problemi. Quindi è un anno che siamo qui in piazza a battagliare, in piazza e non solo, anche nelle aule di tribunale, abbiamo fatto ricorsi al TAR. E oggi a distanza di un anno siamo ancora qui perché il pericolo che il Pizzo del Prete venga trasformato in una discarica, o peggio, è più forte di un anno fa praticamente. Clini sta continuando a dire che è il posto ideale per fare il sito definitivo, probabilmente non è mai venuto in questo pezzo di campagna, ma questi non si spostano, pensano agli interessi e basta, quindi siamo qui per ricordarvi che c'è la gente dietro ai nomi che loro leggono sulle carte. Non si sente più. Adesso sentiamo il megafono che parla. Non sento assolutamente niente, mi dispiace. Tu continua a parlare comunque, noi ti sentiamo. Sì, vai tranquillo. C'è un po' di confusione, sì, che possiamo permettere. Tra un po' si muoverà il corteo sull'Aurelia. Sfileremo quindi per un paio di chilometri dalla località di Torri in Pietra e ci avvicineremo verso Pizzo del Prete, per l'appunto, a Palidoro. È chiaro che per noi è una giornata decisiva questa. Noi dobbiamo dimostrare al governo, al prefetto Sottile, al ministro Clini, che noi qui non ci siamo assolutamente. Per un anno ci hanno portato in giro, ci hanno sempre rassicurato. Noi non ci siamo fidati, abbiamo fatto bene, quindi siamo stati in piazza dal primo giorno e non abbiamo mai smesso. E abbiamo continuato a fare una lotta innanzitutto sul nostro territorio, perché la cosa che riteniamo importante è che la gente capisca e conosca che cosa i nostri amministratori, il governo, prima di tutto vogliono fare sui nostri territori, come li vogliono trasformare. In virtù appunto per difesa di interessi che non sono quelli della gente comune, chiaramente. E quindi noi siamo rimasti in piazza per un anno intero e continueremo se ce ne sarà la necessità. Il tempo non ci assiste, sta cominciando a piovere abbastanza allegramente e quindi dovremmo aprire anche gli ombrelli. Chiediamo a tutti di seguirci, perché la lotta per Pizzo del Prete è la lotta per Albano, la lotta per Colle Serre, la lotta per qualsiasi altro sito a rischio. Certo, la lotta sui rifiuti si è riunita. Ci devo lasciare in questo momento perché è arrivato anche il sindaco di Cerveteri, quindi dobbiamo partire e cominciare a sfilare sull'Aurelia. Ok, buona manifestazione allora. Ciao. Pronto? Ciao. Buongiorno a tutti. Noi purtroppo stamattina non siamo lì, ieri ci siamo sentiti con i comitati di zona e loro stessi ci hanno detto, noi siamo in presidio giorno e notte sulla Tiberina, forse è la prima volta in Italia che è chiusa una strada statale per 6 giorni di seguito, no? Per cui insomma abbiamo dei problemi logistici abbastanza importanti e loro ci hanno detto che accettavano il nostro sostegno dal sito dove siamo. E stamattina, come sapete, sono uscite fuori altre amenità, tipo che l'unico problema per rispetto alla realizzazione di questa discarica eventualmente a Pian dell'Olmo sarebbe la viabilità, perciò basterebbe allargare 6 km di Tiberina per risolvere ogni problema di idoneità di quel sito. Insomma, stiamo parlando proprio di assurdità una sull'altra, che continuano a dire cose senza senso prendendo in giro tutti i cittadini. Insomma, noi Riano assolutamente ha preso coscienza piano piano nell'arco di questi mesi e assolutamente è contraria a che ci sia un'altra popolazione dopo quella di Corcolle, dopo, visto questo stato di scarica, no? Dopo Corcolle, dopo di Riano, che debba soffrire, debba passare delle giornate così senza lavorare, con stress, con la preoccupazione. Non vuole che si ripeta questa cosa eventualmente con altri siti, perciò è vicinissima a Pizzo del Prete e tutti quanti stiamo parlando di questa cosa. Adesso faremo un'assemblea in sostegno di questa situazione. Certo. Voi avete intenzione di mantenere il blocco fino a che non sarà risolto il problema, quindi il braccio di ferro, diciamo, è abbastanza deciso. È deciso, adesso stanno facendo marcia indietro. Ieri l'altro ieri ci abbiamo avuto una passerella, è risbucato fuori Marrazzo, tutto vestito da fricchettone, è venuto giù Esterino Montino, dopo essere stato trattato malissimo l'altro ieri da un vecchio compagno della CGL e del PC, insomma, e gli ha detto ma queste sono le cose che abbiamo costruito 60 anni fa, insomma. Lui se n'è andato con le gambe, il giorno dopo diceva ho preso posizione in Parlamento. Insomma, insieme a questo sono altre decine di politici che adesso stanno cercando di salire su questo carrozzone. La Polverini si è espressa a favore di Riano. Cioè, ma a noi questa cosa qui, per fortuna, questa lotta ci ha insegnato e ha insegnato anche a persone, a tutta la comunità che questa gente sta facendo dei balletti, che non pensa assolutamente a fare il suo lavoro, cioè è soltanto un discorso esclusivamente politico. Elettorale, più che elettorale, altro. Esclusivamente, non c'è niente di tecnico, non c'è niente cioè non c'è niente per cui noi paghiamo queste persone, cioè per il lavoro che stanno facendo, non lo stanno facendo, non guardano neanche le carte, non è possibile. Certo. Sono sottile, gli avranno dato questi soldi per fare il pupazzo dal mezzo, adesso lo metteranno in mezzo in qualche modo, a secondo poi la decisione politica, a secondo la cordata che vincerà fra queste due grosse cordate, quella di Cerrone e quella dei palazzinari romani. Per cui, insomma, sto parlando di chi si sta comprando la CEA, insomma, no? Certo. E si vuole prendere la CEA e Mondezza. Per cui, insomma, la lotta è questa qua, non sono altre. Ecco, tu uscissene stamattina dopo, senza averci rispetto delle persone che stanno senza lavorare e stanno dormendo, non stanno dormendo da 6 giorni sulla Tiberina, loro se ne escono che l'unico problema è la viabilità, insomma, siamo proprio stiamo raschiando il barile. Al ridicolo. Bene, comunque vabbè, che voi continuate, vedremo, sì. Adesso appunto la manifestazione sta andando abbastanza bene, questa di Pizzo del Prete, quindi è partecipata, e importante è che la lotta in tutti i comuni intorno a Roma, le realtà intorno a Roma, contro i rifiuti diventi una lotta unitaria, perché solo così si può piegare il piano rifiuti, che è veramente vergognoso. In tutta Italia, è successo pure che sono venuti i compagni di Chiaiano, certo. Adesso però non so se lo sapevate, ma sono stati 2 giorni da noi, praticamente la gente di Riano non li faceva più andare via, alla fine l'hanno messi a cuocere l'esercizio insieme è stata una cosa, li hanno probabilmente abbracciati, cioè non sono via perché c'erano qualcuno sempre abbracciato addosso. E perciò c'è questa consapevolezza, questo nuovo modo, questa ricerca di un nuovo modo di una nuova società, una società che viene dal basso, è forte. Solidale, insomma. Certo, ecco, è perfetto. Infatti in prospettiva ci sarà questo incontro nazionale di tutte le realtà sul problema specifico dei rifiuti e della difesa dei territori di fronte a queste speculazioni, questi attacchi vergognosi che i potenti cercano di fare al luogo dove viviamo, dove cerchiamo di vivere, insomma. Assolutamente, il 16 giugno, sarà assolutamente un punto importante per partire su questo piano. Bene, e allora buon blocco, continuate il blocco, la solidarietà ce l'avete. Noi siamo in assemblea continuata e stiamo in questo momento facendo informazione su Pizzo del Prete e siamo in solidarietà con loro.